Quindi avete già le prime due chiavi? Una grande impresa, se dite la verità. Ma sappiate che la terza è la più difficile da trovare. Si dice sia nascosta nel cuore del deserto. Ed è strano pensare che un gruppo come il vostro sia già arrivato fin qui.